ogni volta che mangio ti devi lavare, non è che devi visitare l'unico, ogni volta che mangio devi lavare i denti, è ben lavato, specialmente chi soffre di queste cose hanno bisogno anche della pulizia ogni tanto. Quello lì sente, però adesso ti ha aggiunto un'altra cosa, che sia molto meglio. Vabbè, se sembra di tutto così in effetti. Lucasa, Lucasa. Stasera ci siamo dati tutte le puntate, le migliori puntate che ho fatto, queste di puntate allucinate. Ne ho visto qualcosa. Sono un po' di tempo che sta per essere in chiusione. Oh, ma tanto che c'è il baracchino usci. No. Perché anche stanno con le porcherie che a me ne ho piaciuto. Poi anche se voglio guardarmi qualche cosa, sono qualche tipo da guardare, sempre. Un attimino che sto andando a prendermi l'antibiotico, come le stavo dimenticando, se no ti devo radio, quello non ti fa effetto. Grimaldi, e stavo partendo la Cattilegna, ci siamo andati. Open Nano, Open. E poi quelli di Porto Ottone ce lo sanno, cazzo se finchivi. No, anche no, quest'anno proprio niente, poca roba. Ma lo scorso c'è, diciamo, ne hanno preso, ma tutti pescavano, tutti. In cosa c'è il punto di mettere per prenderci? Cosa? Faccio un tuo flash, no? Però non funziona, al limite lo faccio col telefono. Ma dimmi una cosa, cosa bisogna schiacciare? Tenere pressato quel tasto che quando incastra la macchina fotografica rimane pressato, o che cavolo bisogna fare? Le batterie di zio, però non funziona. C'è una luce, una volta che c'è una luce, una lampeggia, schiaccia il flash. Guardi, ne ho e ne ho questa cosa, ma comunque forse sono le batterie scariche. E cavolo, quello è tipo mio, E allora? È strano, ho un caricato il condensatore. Non so, avanti, ma raggiungerà giù un po'. C'è anche il coso, Antonio, il palmedio. E dopo se palmedio è arrivato, palmedio. Forse è arrivato. C'è. No. Ciao Ale. E dove ti dirigi? A Porto Torre. Ragazza, e allora, vedi un po' cosa ne pensano queste cose. Queste scippie. Vediamo. Vediamo a pescare qualcosa, dai. Ascolto Radio 9, fai attento a me, e Radio 5, Santiago 9, mi arrivi, in Opio, la 131, dove ti trovi? Sì, a casa mia sono. No, sì, un quartiere di americano. Oppa! Che palizzo, a casa mi arrivi un po' più debole la cosa, e no, che mi sei arrivato in pieno. Aspetta, la mia è quella. Invece per l'autore arriva molto di più, dalle palmate dove abbiamo. Poi normalmente ne sta giù un po' giù lo flash. Cioè, io faccio io flashato, e non la ciappo, Che cazzo sei scito? Se non lo sai tu. Non mi hai trovato, grava Rogero. Quindi Luca, cosa mi stai dicendo? Non bisogna, ma tu non c'hai un pezzo di scotch attaccato da qualche parte? Io non ho scotch attaccato da nessuna parte. Era sempre tenuta, allora off bisogna mettere off in on, per accenderlo carica il condensatore, fai parola e fai e carico è stato secondo me allora non mi sono andati le batterie perché on non si è un po' venuta allora poi pure c'è una cosa che non guardi. Sto aperto contro la batteria adesso, perché ci ho messo quelle ricaricabili. Ma se in un verso vogliono, perché di qua vogliono tutte in un verso. No, le mie sono da parte della sinistra, da destra più e a sinistra meno. C'è una specie di regolatore di qua, un fiume. No, forse, posso dire. No, non credo, non ti posso aiutare. Ma è non si può fare spara su e si va, le batterie sono cariche, ragazzi. Rosso. Però c'è. Qualcosa non è, come se nel mio come fa? Lampeggia, poi lo accendi, c'è quel led, no, lampeggia. Poi c'è quel tanto spadone e quello che c'è la penale, e fa flash. Dopo Luca, è un mezzo da vedere, ma la cartuffare non funziona, ma che anche se forse ci sono le batterie cariche, che ne so. No. Non lo so. E la vede, la vede. E la vede, arriva qua, sì. Non sono a San Giovanni. E cazzo, ti ha passato un po' il segnale. Ma non è che non c'è San Giovanni. Luca, a pescare sei andato? Dai, via! A pescare sei andato? Via! Beh, ci sono due stringuelle e una 500, lì c'è una 600 per la blu e sono una più buona dell'altra. Ne sono una passo piano, piano, piano, piano. Ma c'è? 3-5 ho una macchina, una 600 di Polo. Un sorpassino dopo. Al video. La conoscerò. Buoni passo. Domani. Alla gara. Oh, yeah, yeah. Fatto. Non fa parlare, dai. Thank you. Yeah.